Ad alta voce, Monica Piseddu legge Il gioco dei regni di Clara Sereni. Quattordicesima puntata. Sionismo, comunismo, parole che hanno assunto negli anni significati e sfumature diversi. E per chi ha oggi 20 anni, il sionismo viene identificato con l'ideologia mortifera della grande Israele e il comunismo nel disordine sanguinoso di cui l'Unione Sovietica li ha fatti eredi. I 20 anni di Enzo e di Mimmo, i febbrili 20 anni di chi era nato con il secolo, trovavano in quelle e in altre parole un denominatore comune, la speranza di un mondo diverso, più giusto ed umano. Lotte feroci dilaniavano i due gruppi, e non soltanto sul piano verbale. Fra i sionisti, il rapporto con le popolazioni arabe era già una discriminante. Fra i comunisti, la cultura del silenzio e del sospetto già mieteva le prime vittime. Ma per chi cercava un sogno da vivere, per chi voleva essere parte attiva della forza che porta avanti il mondo, una scelta si imponeva comunque, fra potenti e umiliati, fra vittime e carnefici, fra oppressi ed oppressori. Quale che fosse il nome che si dava agli oppressi, quale che fosse l'ambito in cui si identificavano gli oppressori. In ogni scelta entrarono per ciascuno inclinazioni e sentimenti, esperienze patite e nodi psicologici irrisolti, passioni e timori. Ma di questo ben poco è dato sapere, perché chi allora scelse di agire usò le parole per cambiare il mondo e non per raccontare di sé. Più o meno visibili restano oggi gli effetti che quelle scelte produssero e i molti errori che tutti commisero, perché, come dice un proverbio popolare, chi non fa non sbaglia. Gli anni erano spietati, il nemico appariva invincibile. Nell'affrontarlo a viso aperto, nel decidere della propria vita tutta intera, ci fu chi seppe mantenersi laico e chi mutuò dalla religione il senso dell'unità indissolubile e del dogma. Sull'insegna dai colori stinti c'era scritto Salone, ma dentro era un basso come tanti. Il letto, le pentole, poche masserie povere e un'unica poltrona che doveva aver visto tempi migliori. L'uomo smise di trafficare attorno ad una scarpa che stava rattoppando per farsi incontro al cliente, una benedizione per la sua giornata. Uno studente, poco più che un ragazzo, e il barbiere non sapeva cosa potesse chiedergli con i capelli e la barba lunghi che aveva. «Accomodatevi», disse comunque al cliente, spazzolando il sedile della poltrona con l'asciugamano di dubbia pulizia che portava di traverso sulla spalla. Il ragazzo si tolse lo zucchetto che aveva in testa, lo piegò con cura, se lo mise in tasca. Si guardò nello specchio, si sedette cautamente. L'uomo fece basculare all'indietro la poltrona e Mimmo ora vedeva soltanto il soffitto. Crepe, ragnatele, sporcizia. Il barbiere più economico di tutta Napoli. L'uomo rimaneva in attesa, stropicciandosi le mani. «Barba e capelli», disse Mimmo finalmente, scandendo le parole. L'uomo affilò il rasoio e intanto aspettava che l'acqua si scaldasse. Poi girò il pennello con energia e venne una gran schiuma. Mimmo si tolse gli occhiali, chiuse gli occhi, le forbici, il rasoio, la schiuma. Poi il barbiere gli mise davanti lo specchio. «Proprio un'altra persona», commentò con un gran sorriso, e gli fece cenno di guardare. Mimmo vide nello specchio una faccia pulita, qualsiasi. «La spazzola? La lozione no, grazie». Per la strada il freddo che schiaffeggiava le guance nude e il collo scoperto dava sollievo a quel po' di irritazione che il rasoio aveva lasciato. Tornò a casa piano, con un passo da convalescente che via via prendeva vigore, come chi, attraverso l'amputazione di un arto, senta di essersi finalmente garantita la salvezza della vita. Ma qui convien con voli. Dico con l'ale snelle e con le piume del gran disio, di retro a quel condotto che speranza mi dava e facea lume. La voce sovrasta il rumore dei rami che cadono, lo scricchiolio delle foglie calpestate, gli schiocchi secchi delle cesoie. L'aranceto è una macchia verde scuro, fitta di alberi che a malapena lasciano intravedere i braccianti, arabi e yemeniti, beduini ed ebrei di ogni parte del mondo, per i quali il ritorno alla terra significa davvero sporcarsi le mani con la polvere e la sabbia della Palestina. Con i versi della Divina Commedia, Enzo dà il ritmo ai propri gesti, ora che le sue mani, dopo vesciche e piaghe, lavorano alla potatura con la competenza acquisita nei libri e sul campo. Nel breve intervallo del pasto, Enzo mangia in fretta il suo pane e le sue olive, e intanto legge il Corriere della Sera, che con regolarità gli arriva dall'Italia. I compagni di lavoro si incuriosiscono di lui, che poteva essere professore e fa il contadino. Enzo cerca con loro un piano di parità. La fatica li avvicina, però non può renderli uguali. Dopo il lavoro, dopo le riunioni politiche, dopo le visite di cortesia a vicini ebrei e soprattutto arabi, dopo aver dato un aiuto ad Ada che è di nuovo incinta, alla fine delle sue giornate lunghissime, con le dita indolenzite dalla fatica, Enzo scrive a Mimmo per mantenersi vicini, e l'idea che suo fratello lo raggiungerà presto lo aiuta a sopportare la solitudine, le incertezze, le difficoltà concrete della nuova vita. Pagine e pagine, le notizie limitate all'indispensabile, e invece grande spazio alla discussione teorica serrata. Perché questo serve a Enzo più di ogni altra cosa nell'isolamento che si trova a vivere. I libri che si è portato dall'Italia sono la sua casa, e con nessun altro, come con Mimmo, può parlare di libri, letti, da leggere, da acquistare, in un piano di crescita, di maturazione, di costruzione che Enzo immagina ancora comune. Perciò si consente qualche vezzo da fratello maggiore, forse pensa che questo possa aiutare Mimmo a smussare le punte di un contrasto da subito spigoloso e poi decisamente aspro. Rehovot, 27 ottobre 1927. Carissimo Uriello, io credo che tu sia un po', come è inevitabile, suggestionato dalla forza logica quadrata del comunismo, e che abbia un po' con la furia del neofita che si è accorto di aver fino ad ora misconosciuta la nuova fede, dimenticato molte premesse che ho tenuto utile ricordare. Dico questo perché è accaduto così anche a me nei primi mesi di permanenza qua. Ora in me questa crisi, non certo infruttuosa, è superata e io sono saldo sulla nuova posizione critica conquistata che mi sembra insieme un passo avanti sul marxismo e sull'idealismo e che, se avrò tempo, concreterò in uno studio Marx e uno La premessa critica del socialismo. Ciò non esclude naturalmente per parte mia la volontà fermissima di criticare ancora e sarò assai lieto di sentire nuove tue osservazioni. Già queste prime hanno servito non poco a chiarire il mio pensiero, come spero sarà delle mie obiezioni per te. Rispondimi e non badare troppo allo stile pessimo della lettera. Ho urgenza di ricevere i libri che mi dici. Saresti d'accordo di comprare le opere di Lenin in tedesco complete? Capisco che tu voglia comprarle in russo, ma mi dicono che non sia un grande stilista. E del resto l'essenziale è il pensiero. È una spesa un po' forte, perciò è meglio essere d'accordo e non far duplicati inutili. E per oggi 27, basta. Addio. E Xenia? Un bacio da Enzo. Mimmo aveva detto verrò. Per mesi e mesi, il tempo difficile dell'incertezza e delle sconfitte, Enzo si fidò di quella promessa. e intorno a lui tanti cedevano per malattia e per disperazione, impotenti di fronte a quella terra amara che li respingeva. Anche quando cominciò lui stesso a dubitare di molte cose, il legame che lo stringeva al fratello sembrò a Enzo una certezza. Discutendo puntigliosamente le nuove idee che Mimmo gli andava proponendo, mettendolo in guardia da certi difetti che gli conosceva, sempre sperava che dopo, parlando faccia a faccia, i problemi si sarebbero risolti. Della trasformazione di Mimmo era lui l'unico testimone e l'unico interlocutore, troppo sicuro dell'affetto che li univa per pensare che i contrasti teorici fra marxismo e idealismo potessero trasformarsi nell'inconciliabilità delle loro vite. Ma le lettere di Mimmo diventavano sempre più aspre. Enzo sentiva che il fratello cercava in ogni modo la rottura, anche se gli era difficile capire il perché fino in fondo. Ada stava partorendo la loro seconda figlia, Agar, quando Enzo scrisse a Mimmo l'ultima lettera. Tante pagine fitte, zeppe di abbreviazioni e di riferimenti perché nessuna argomentazione fosse lasciata intentata. Una confutazione stringente per affetto. Perché nessuno dei due sarebbe più stato se stesso se avesse rinunciato alle proprie opinioni senza esserne persuaso fino in fondo. In calce, come per un atto ufficiale, Enzo si firmò con nome e cognome. Però convinto che si potesse, si dovesse continuare a discutere, lasciare aperti gli spazi per il confronto e soprattutto per l'affetto. Per ora, naturalmente, io non prendo alcun impegno. E allora certo risolveremo il tutto secondo quel più che fraterno amore che ci lega. Sai se mi si spezza il cuore scrivendoti ciò. Io spero che il tempo sanerà questa divisione che quasi rompe le nostre vite che unite faranno non piccole cose. Perciò credo utile questo nostro scambio di lettere e vorrei pregarti di fare uno sforzo per uscire dal cerchio magico del tuo leninismo e giudicarle criticamente. Io sono sicuro che ne vedrai allora la limitatezza e la insufficienza, come me, e che questa allucinazione ti passerà. Con questo invito a una critica interiore, che è anche, credimi, invito a me, ti bacia il tuo Enzo Sereni. Chissà se Mimmo rispose a questa lettera, alle argomentazioni di Enzo e all'affetto. Di certo non scrisse più dopo, né volle che il fratello gli scrivesse. Per le regole della cospirazione necessarie e per non tornare a spargere sale sulle ferite. Aspettando la partenza del treno, si appoggiò ad una colonna dietro, dove poteva sperare che nessuno la vedesse. Eppure, anche nell'aria fresca, le sue guance non tornavano normali. Era tutta rossa per l'ansia e l'imbarazzo. La donna che divise con lei lo scompartimento, formosa e piena di gioielli, voleva attaccare discorso in ogni modo, ma Xenia difese a monosillabi il segreto del suo viaggio, che pure temeva così palese. La bugia a sua madre di una gita con le colleghe e invece il progetto di 2 giorni interi con Mimmo, da soli. Guardava fuori dal finestrino con una fissità ostentata. La donna formosa si era tolta il cappello, teneva sulle ginocchia un giornale popolare, però non si decideva a sfogliarlo. La pioggia rigava i vetri sporchi e i pensieri impazzivano come quelle gocce. Tentava senza gran risultato di dar loro un ordine e un filo, di immaginare cosa sarebbe successo e come. La fantasia le offriva scenari improbabili e alle soluzioni piatte che la ragione le forniva non intendeva piegarsi. Tanti interrogativi le si agitavano dentro e le mani a tratti le tremavano. La prova d'amore. Quante volte aveva sentito altre che ne parlavano e chi si era rifiutata e chi l'aveva concessa, pentendosene poi amaramente per tradimenti e abbandoni. Xenia aveva deciso di sì. E non solo perché lei e Mimmo si sarebbero sposati fra poche settimane. Nella ritirata del treno, poco prima dell'arrivo, attenta a non sfiorare le suppellettili sudice e maleodoranti, Xenia si assestò il sottabito e la linea delle calze, si pettinò, si incipriò. Pallida e tirata per la stanchezza com'era, Xenia avvampò di nuovo quando con Mimmo varcò il portone della pensione. Le eroine dei romanzi che leggeva mai sarebbero entrate senza chaperon in un luogo abitato da uomini, o almeno lo avrebbero fatto di soppiatto, non come lei che sfidava il sole. Ma le convenzioni borghesi, quante volte lo aveva detto Mimmo e con quale convinzione, erano ostacoli stupidi da superare di slancio. Xenia si inumidì coscienziosamente le labbra e fu pronta al grande balzo. Mimmo abbassò la maniglia della sua stanza e fu tutto un coro di saluti. C'erano Manlio e Irene, la sua fidanzata. C'era tutto il gruppo degli studenti sionisti. Con qualche stordimento, Xenia salutò, abbracciò, rispose alle domande sul viaggio e su Roma. Scomparso il rossore, ora le sembrava di non essere neanche partita. A casa di sua madre o in quella di via Cavour, quelle stesse persone le aveva viste tante volte. Mangiarono tutti insieme, con l'allegria dell'arrangiarsi. Poi Mimmo le propose una passeggiata. Lei aveva le gambe indolenzite per la stanchezza, ma non rinunciò. Voleva parlare e baciarlo e averlo tutto per sé. Per la strada si trovò a canterellare una canzone napoletana che diceva di sole, di mare, di felicità. Mimmo sorrise senza cattiveria delle sue illusioni. Perdonabili, veniva a Napoli per la prima volta. E la condusse nei vicoli dei quartieri spagnoli. Le mostrò la miseria dei bassi e la disperazione dei bambini. Xenia, in bilico fra lo sbigottimento e l'attesa. Fra poco sarà notte e i nodi necessariamente si scioglieranno. Mimmo parla e parla. La questione meridionale, di cui tante volte le ha detto, è concreta nelle immagini di quelle stamberghe, di quelle facce. Xenia ha in mente ancora le canzoni in voga, anche se non canta più. Le piacerebbe magari vedere la funicolare del Vesuvio o qualche altro luogo celebre, ma Mimmo, distratto, brucia la sua proposta timida con una citazione: «Quand bugie che digane canzone». Perplessa e sfinita, Xenia si siede su un muricciolo, decisa ad affrontare a piè fermo il destino che l'attende. E infatti anche Mimmo tace. Siede anche lui, le dà un bacio e gioca con i suoi capelli, poi dice: «Dobbiamo parlare». Xenia è pronta. Lui per una volta appare imbarazzato, il discorso non gli viene sciolto e torrenziale come sempre. Poi, sia pure con il disagio di sguardi che non si incontrano, di corpi che restano distanti, Mimmo riesce a dire della decisione che ha preso. In Palestina non si va più. Il progetto è cambiato. Saranno comunisti. Ora le argomentazioni scorrono. Mimmo non spiega il salto improvviso, ma le ragioni del nuovo credo gli vengono fluide e convincenti. Le parole tracciano le maglie di una rete che abbraccia il mondo, capace di rispondere a ogni aspetto della vita, anche il più intimo e personale. Una dialettica stringente che non lascia appigli. Xenia è muta, offesa per il silenzio di tanti mesi di riflessione solitaria da cui lui l'ha tenuta fuori. E lei lì a studiare l'ebraico a capofitto. E forse non bastava, e anche l'arabo sarebbe stato necessario. Enzo? Si rammenta Xenia all'improvviso. Enzo che è già partito, ed ora con Ada sta aspettando che arrivino anche loro due, perché l'utopia si faccia stato. Mimmo ha in tasca la lettera più recente di Enzo, ma non la leggerà Xenia. Enzo e Ada costruiscono sulla sabbia, dice Mimmo, e ha un tono sprezzante, ultimativo. Io voglio qualcosa che duri. Di quella separazione di destini, forse Xenia è contenta, ma avrebbe voluto che Mimmo dicesse noi. C'è tempo, si dice Xenia, per accettare. Tutta la vita insieme e la sera, la notte che li aspetta. Davanti al portone della pensione, quando dopo un bacio lungo Mimmo dice che le cede il proprio letto e dormirà in caserma, il sollievo di Xenia è evidente e insieme la delusione. Mimmo ha in mente Alfonsa e cita Lenin in russo. Fare l'amore è sì naturale come bere un bicchiere d'acqua, ma il bicchiere deve essere ben pulito e con le sbreccature del vetro ci si può ferire. Nel letto freddo Xenia fatica ad addormentarsi, ma poi la quieta il pensiero che Mimmo certamente troverà per lei tutte le risposte, anzi che Mimmo è la sua risposta. Con Alfonsa, la parlantina sciolta di Mimmo si inceppava facilmente, per rispetto e anche per sentirla molto simile a sé, acuta e diretta nei giudizi fino ad apparire implacabile. Scelse un momento in cui rammendava. Accanto aveva la radio accesa su un concerto. Gli occhiali calati sul naso la mostravano tranquilla e saggia. Partì da lontano, dalle storie di Babele, là dove si dice che la dispersione dei popoli e la moltiplicazione delle lingue non furono in realtà una maledizione, ma l'opportunità offerta agli uomini di vivere un'esistenza multiforme, ricca di differenze e di scelte. Senza interrompere il lavoro, Alfonso ascoltava. Le storie di Pellegrino rivivevano nella voce di suo figlio con uno strano effetto di continuità calda e insieme di allarme. Nell'interpretazione dei versetti della Torah e dei commenti dei maestri, Mimmo si inoltrò in giochi arditi di traslitterazione, per passione, per abitudine e per rinviare il momento. Alfonso non si lasciò ingannare. Annodò il filo, piegò lo strofinaccio su cui ancora avrebbe dovuto lavorare, guardò dritto verso il figlio, che nella tela di ragno dell'aramaico si era ormai del tutto invischiato. Dignitosamente lui riuscì a finire la frase, poi si fermò. Le parole che ora doveva dire erano semplici, chiare. «Non andrò in Palestina», disse infine, e altro non si poteva aggiungere. Alfonso pensò a Enzo, alla tenda esposta ad ogni vento in cui aspettava che il fratello lo raggiungesse, e l'idea che i suoi figli si separassero la raggelò, ma poi pensò a Mimmo vicino e al peso che la sua parola poteva avere. Mimmo aspettava, fragile. Con un gesto raro Alfonso gli andò vicino, lo abbracciò stretto. Sollevato, Mimmo le disse dei progetti che aveva in mente, quelli almeno di cui poteva parlare, agire, cambiare il mondo con le mani e con la parola, perché non si può aspettarlo soltanto il Messia, bisogna andargli incontro. Alfonso riprese in mano il lavoro e i lunghi punti del rammendo ratificarono la scelta di vita che Mimmo aveva compiuto. Il mio giorno è cominciato in te, la mia notte mi verrà da te, un sorriso ed io sorriderò, un tuo gesto e io piangerò, la mia forza me l'hai data tu, ogni volta che hai creduto in me, tu m'hai dato. Era ancora Monica Piseddu a leggerci Il gioco dei regni di Clara Sereni, la 14ª puntata di questo ciclo del programma Ad alta voce, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio e Riccardo Amorese alla regia. A volte capita di perdere una puntata, si può riascoltarla sul sito raiplayradio.it. In questa giornata così punteggiata dalla vostra partecipazione, torniamo al nostro De André. Prima abbiamo detto, e vedo un altro messaggio che riecheggia, il messaggio che abbiamo citato, che qualcuno non è contento di quella che viene definita la celebrazione continua di De André, e c'è una risposta comunque arguta di un altro ascoltatore o ascoltatrice, che citando proprio De André dice: ma tu che lo critichi, cosa ti ascolti di migliore? Il suonatore Jones. Continuate a raccontarci il vostro De André e anche i motivi per non amare De André, se non lo amate. Ovviamente diamo spazio a tutto e ascoltiamo però ancora da Creusa de Ma di Fabrizio De André del 1984 a Domenica. Sabo delinetinho. Chamberlain, si sa Berlin, à fougeux que j'ai des chacanes, incaïnant nous c'est de terre sa main, et pour des gélos démontrant le jeu, à Chamberlain, si sa Berlin, à fougeux que j'ai des chacanes, incaïnant nous c'est de terre sa main, et pour des gélos démontrant le jeu. Chacanuge, encaignant-nous, c'est de terre sa main, et pour des gélos, démontrant le gélos.